se no poi mi trovo in situazione di stallo. Ricordo quell'anno vissuto d'incanto, per non prender fuoco mi vestivo d'amianto, facevo volate di birra cubana e dopo restavo senza un filo di grana. Allora istruiscimi tu, posso fare qualcosa di più. Vestirmi d'un fiato e non trovarle già fatte, e aspetto un messaggio da lei, magari un tantino in delay. Ma che presunzione, sono solo un illuso, magari per te sarò anche un intruso. In fondo ho capito che mi ero sbagliato, anch'io mi ero messo in un piccolo cieco. È stata un po' dura, però adesso ci vedo. Cercavo nel male un rifugio d'amore, sbagliavo sicuro, ma l'ho fatto col cuore. Allora istruiscimi tu, posso fare qualcosa di più. Alle quattro di notte, svestirmi d'un fiato e non trovarle già fatte, e aspetto un messaggio da lei, magari un tantino in delay. Ma che presunzione, sono solo un illuso, magari per